dal libro del profeta Malachia. Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco viene, dice il Signore. Adorate il Signore nel suo Tempio Santo. Adorate il Signore nel suo Tempio Santo. Date al Signore gloria e potenza nel suo Tempio Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Adorate il Signore nel suo Tempio Santo. Portarono Gesù nel Tempio, Simeone lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, e andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirige i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Portarono Gesù nel tempio, Simeone lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Uniti nella liturgia di lode, acclamiamo e invochiamo il nostro Salvatore, presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. O luce delle genti, illumina il tuo popolo. Signore, che secondo la legge hai voluto essere presentato al Padre nel Tempio di Gerusalemme, insegna a noi a offrirci con te nel sacrificio della tua Chiesa. Cristo Gesù, nostra gioia e salvezza, cercato e trovato nella casa del Padre tuo da Simeone, uomo giusto. Fa che ti riconosciamo e ti incontriamo anche noi nelle membra sofferenti della tua Chiesa. Atteso dalle genti, la profetessa Anna parlava di te a tutti coloro che aspettavano la redenzione di Israele. Insegnaci ad annunziare degnamente il tuo Vangelo. Pietra angolare del regno di Dio, posta come segno di contraddizione. Fa che gli uomini, vivendo nella fede e nella carità, trovino in te la risurrezione e la vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.